da quale angelo mi è stata presentata. Solo a vederla mi è venuto il batticuore. Ho detto basta, finalmente l'ho trovata, una ragazza ancora ingenua come un fiore. Ho conosciuto Giucciola, Giucciola, Giucciola, è una ragazza semplice, semplice, mi ha fatto innamorare. È un bocciolo di rosa, lei non porta tacchi a spillo, lei non sa cantare, lei non sa ballare, ma sa baciare. Ho conosciuto Giucciola, Giucciola, Giucciola, meravigliosa e semplice, semplice, la sua boccuccia è un fiore che sussurra così. Baciami, baciami, io sono la tua Giucciola, Giucciola, nessuno è più felice di me. Giucciola, Giucciola, Giucciola, meravigliosa e semplice, semplice, la sua boccuccia è un fiore che sussurra così. Baciami, baciami, io sono la tua Giucciola, Giucciola, nessuno è più felice di me.